Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo di come cambiano le rotte mondiali di merci con l'allargamento del canale di Panama e quindi cosa può succedere per il nostro sistema logistico. Quindi focalizziamo l'attenzione sul cabotaggio con l'aumento dei controlli da parte della polizia stradale, poi spazio alla mobilità delle persone con i risultati di uno studio commissionato da ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. Quasi un anno fa, era agosto, veniva inaugurato l'allargamento del canale di Suez e nei giorni scorsi, potremmo dire, è arrivata la risposta di Panama, dove è stata completata un'operazione praticamente analoga, cioè un canale più ampio in grado di accogliere navi più grandi. Da Panama passa quasi il 4% del commercio mondiale di merci, tra queste sempre su base planetaria, quasi il 15% di grano e quasi il 6% di prodotti chimici. Ma quali sono i primi effetti dell'allargamento del canale di Panama? È la prima domanda che abbiamo posto a Massimo De Andreis, direttore generale di SRM, Studi Ricerche Mezzogiorno, collegato al gruppo Intesa San Paolo, che all'argomento ha dedicato un dossier specifico. Primo è il fatto che consentirà il passaggio di navi decisamente più grandi, navi che arriveranno fino a 13-14 mila TEU, cioè come dimensione diciamo di porta container. Poi il fatto che potranno passare anche una nuova tipologia di navi, quelle diciamo che portano gas naturale liquido e petrolio, e infine l'aumento del numero dei transiti, che possono arrivare fino a 50 transiti al giorno. Ma cosa significa? Cosa comporta un aumento della capacità del canale di Panama? Se facciamo un ragionamento, diciamo, in una logica un po' prospettica e guardiamo che cos'era Panama e che cos'era però anche l'altro grande canale, cioè Suez, 15 anni fa, 10 anni fa, erano sostanzialmente analoghi sotto un profilo di ruolo globale. Entrambi erano dei grandi canali globali. Oggi, nonostante questo allargamento importante, il canale di Panama sembra diventare principalmente un grande canale interamericano. Suez, invece, da un certo punto di vista diventa ancora più globale, perché si rafforza come area di passaggio dalla Cina, o dal più genericamente parlando dall'Asia via Mediterraneo verso la costa atlantica degli Stati Uniti. Secondo l'analisi di SRM, quindi i nuovi scenari mondiali del traffico di merci potrebbero offrire ai porti del Mediterraneo ulteriori chance, quindi nuove possibilità per i nostri scali e per tutto il sistema logistico che vi ruota attorno. Ascoltiamo ancora Massimo De Andreis. La rotta dall'Asia verso la costa atlantica degli Stati Uniti può trovare una maggiore convenienza a passare dalla costa, diciamo, del Mediterraneo, perché intanto, diciamo, ha dei punti di passaggio di importanza strategica, uno di questi sono gli Emirati, poi il passaggio attraverso il canale di Suez, l'approdo nel Mediterraneo e poi la continuazione con la destinazione finale negli Stati Uniti. Se uno da New York deve andare via nave spostando merci fino a Shanghai, se passa dal Pacifico sostanzialmente ha solo tanto tempo di navigazione del mare, poi attraversa Panama, passando dalla rotta che le ho descritto hai tante tappe in cui puoi caricare e scaricare, assicurandoti un carico medio più elevato che giustifica anche quelle mega dimensioni delle grandi navi, appunto, che peraltro ricordiamoci da Suez non hanno limiti, neanche quelle oltre i 14.000 TEU da Panama non possono passare. In questi scenari potrebbe, diciamo così, irrompere una novità tecnologica rivoluzionaria. In Inghilterra infatti si sta progettando la nave che va da sola, proprio come l'auto del futuro, in parte già realtà, anche se proprio in questi giorni la notizia del primo incidente mortale che ha coinvolto una vettura di questo tipo, arrivata dalla Florida, ha gettato ombre sul suo funzionamento. Il mercantile a conduzione autonoma si muoverebbe grazie anche a droni di monitoraggio, a bordo si libererebbero più spazi da destinare al carico e verrebbero meno i costi dell'equipaggio. Di fatto però la nave sarebbe governata in remoto da una centrale operativa. Chissà se mai nei nostri mari vedremo incrociare una nave così. E sull'onda del futuro un'altra notizia arriva dalla Russia. Qui invece si sta pensando ad un treno lanciato ad una velocità incredibile, pensate oltre 1000 km/h, per trasportare merci dalla Cina all'Europa. A progetti analoghi si sta lavorando anche in California e nel Nevada. In quest'ultimo stato, lo ricordiamo, un anno fa è stato omologato e quindi può circolare il primo camion a guida parzialmente autonoma. Nel frattempo veniamo al presente, torniamo nei nostri porti, dove venerdì è entrato in vigore l'obbligo di pesare i container all'imbarco, quindi per l'export, obbligo previsto dalla convenzione SOLAS. Si tratta di una misura dettata da ragioni di sicurezza in seguito all'aumento degli incidenti causati sulle navi dal sovraccarico. C'erano e restano i timori da parte degli operatori della logistica, autotrasportatori in primis, sull'allungamento dei tempi e delle operazioni nei terminal. Ma stando a quanto accaduto all'esordio, il primo bilancio è piuttosto confortante. Gli scali si sono infatti attrezzati anche individuando punti di pesatura esterni alle aree portuali. A Genova, città complessa non solo per il numero di tir diretti in porto, ogni giorno sono circa 4.000, ma anche per la sua conformazione orografica, il primo stress test di venerdì, giorno anche di partenze sui traghetti per le isole, è andato bene. Vedremo nei prossimi giorni e chiaramente seguiremo l'evolversi della situazione con le notizie che giungeranno da tutti i porti. E dai porti italiani andiamo sulle strade francesi, dove dal 1 luglio è scattato il salario minimo per gli autisti di imprese straniere che sul territorio transalpino caricano e scaricano merci e svolgono servizi di trasporto interni come previsto dal cabotaggio stradale. Si tratta della legge Macron, approvata dal Parlamento francese per arginare la concorrenza sleale e il fenomeno del cosiddetto dumping sociale, un provvedimento sul quale proprio nei giorni scorsi la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione. Nella stessa condizione è la Germania. È un punto critico per l'Unione Europea, in ballo ci sono norme basilari come il libero transito di merci tra i vari paesi e contemporaneamente c'è la necessità di stabilire regole che contrastino il mercato selvaggio dei trasporti stradali. In Italia si è scelta la strada di rafforzare i controlli anche introducendo l'onere della prova. In sostanza, gli autotrasportatori impegnati nel cabotaggio stradale devono dimostrare di operare nel rispetto della legge. Ne abbiamo parlato con Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della polizia, compresa quindi anche la polizia stradale. Noi insieme al Ministero dei Trasporti e al Ministero del Lavoro abbiamo incrementato molti controlli, sia in sede stradale sia in sede aziendale, consapevoli che è un fenomeno anche di carattere, oserei dire, culturale, perché è chiaro che va contrastato anche sul piano appunto di chi fa ricorso a questi soggetti per poter avere risparmi consistente in termini di costi. Credo che però ci siamo avviati sulla buona strada. Ecco. Noi abbiamo verificato nei primi 6 mesi di quest'anno un aumento dei controlli dell'8%. Perché ora c'è l'onere della prova da parte? C'è l'onere della prova, appunto la norma che noi abbiamo costruito l'anno scorso grazie al mondo dell'autotrasporto, e credo che siamo anche questo fiduciosi. Dicevo prima, abbiamo invertito la tendenza in tutti i sensi, la stradale si sta dotando di mezzi, stanno entrando ben 900 macchine tutte tecnologicamente avanzate, con un lettore, con un tablet che ci permetterà di leggere targhe, di fare interrogazioni, con sistemi di controllo dei cronotachigrafi, un software che leggerà i cronotachigrafi, e quindi è evidente che l'uso della tecnologia aiuterà enormemente a incrementare il numero di controlli. Ora uno sguardo anche al trasporto delle persone con i risultati di uno studio commissionato all'Università Federico II di Napoli da ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. Da questa ricerca emerge un'istanza di qualità da parte di chi si sposta abitualmente sui mezzi pubblici extraurbani, al punto che si sarebbe disposti anche a pagare qualcosa di più in cambio di un servizio migliore anche in termini di infrastrutture, come per esempio le autostazioni. Di qui la necessità di porre il cliente al centro dell'attenzione. Al nostro microfono Giuseppe Vinella, neo presidente di ANAV. Da questo studio, in maniera molto chiara e netta, è venuto fuori intanto un valore inequivocabile, che non dobbiamo più parlare di utenti ma dobbiamo parlare di clienti. Seconda cosa è che lo studio ha fatto emergere in maniera anche chiarissima che il cliente sarebbe disponibile ad mettere in campo anche denari in più rispetto a quello che oggi mette, pur di trovare una logistica o un'infrastruttura o ambienti o comunque servizi a sua disposizione che rendano appunto sia la parte stanziale nelle infrastrutture, nell'attesa di poter poi prendere i nostri mezzi e quindi ricongiungersi ai propri familiari e nelle proprie destinazioni. Questa puntata di hashtag Autotrasporti finisce qui, noi ci risentiamo lunedì, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.